quando la luce scende, ogni ombra in te risplende, due fari sono i tuoi occhi ed io seguo i tuoi passi. Polvere d'argento su bicchieri, di vino bianco i nostri pensieri, per brindare ai nostri baci non basterebbero mille croci. Nell'acqua riflessa mi appari, libera senza veli, fluidi sento arrivare dal tuo profondo, dal tuo immenso mare. Amanti incollati senza catene, issiamo al cielo le nostre vele, che il buio non fa paura a chi di luce veste la sera. Una bussola senza lancette, di fiori rosa ci indica vette, che agli innocenti è dato grano da seminare nell'altopiano. Che agli innocenti è dato grano da seminare nell'altopiano. Rose oltre tramonto ci investe e ci trasporta in un'alcova celeste, immersi in un mondo di astri, lontani da ogni lontano mai persi. La notte ci presenta la luna e salutiamo questa bella signora, che ci protegga dai vampiri, dai ghiacci, dai grandi arbusti che sembrano mostri, che ci dia la forza di illuminare la nostra strada, il nostro cuore, che ci dia la forza di illuminare la nostra strada, il nostro cuore. Amanti incollati senza catene, issiamo al vento le nostre vele, che il buio non fa paura a chi di luce veste la sera. Una bussola senza lancette, di fiori rosa ci indica vette, che agli innocenti è dato grano da seminare nell'altopiano. Che agli innocenti è dato grano da seminare nell'altopiano.